Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ad un tratto una voce si sparge. Vengono i crumieri, arrivano, sono giunti. Gli scioperanti si guardano in faccia. Qualcuno stringe i pugni. I Giuda! È l'esclamazione spontanea, dolorosa. E i crumieri arrivano a squadre, attorniati dalla truppa. È uno spettacolo miserando, umiliante. I crumieri! Solo a vederli, le parole ingiuriose si arrestano sulle labbra. Passano quasi tutti con la testa china, gli occhi imbambolati. Sono la zavorra del proletariato, le vittime più meschine della borghesia dissanguatrice. Traditi, tradiscono. Senza volerlo, senza saperlo, forse. Ciao a tutti e tutte da Debs e Olga. Queste parole appena ascoltate sono le parole di una militante instancabile che ha disturbato le notti tranquille di molti prefetti italiani e ha dato anche un bel da fare a tanti militanti dei movimenti operai e socialisti, poiché stare dietro alla sua rabbia e al suo desiderio di rivolta era cosa non da poco. Van Loon è il programma di storia di E con Radio Città Fujiko, fatto da Debs, Olga, Frey, Lara e Alessia, e oggi vi raccontiamo la storia della lionessa del socialismo, la storia di Maria Giudice. Maria Giudice è una militante scrittrice inarrestabile, maestra e sindacalista, viaggiatrice e madre. Tra i suoi figli conosciamo la nota scrittrice siciliana Goliarda Sapienza. Maria Giudice però non è siciliana e finisce nell'isola nel 1920, mandata dal Partito Socialista Italiano, convinto che la sua capacità di propaganda potesse servire ad incitare le contadine all'azione. In quello stesso anno è anche presidente del Congresso regionale socialista, aperto e presieduto da lei. Qui in Sicilia conosce il papà di Goliarda, che si chiama Giuseppe Sapienza. Giuseppe è un avvocato e anche un militante, quindi insieme hanno un gran bel da fare. E infatti l'autorevolezza di Maria Giudice continua a crescere sempre più insieme ad incarichi e compiti importanti. Ma prima di approdare in Sicilia, Maria Giudice la vediamo in varie parti d'Italia, attiva sia come sindacalista che come giornalista. A Pavia prende il diploma per diventare maestra, grazie anche all'incoraggiamento della famiglia, non ricca ma desiderosa che la figlia studiasse. Tra Voghera e Pavia inizia la sua militanza e nel 1902 è già attenzionata dal prefetto, che dice di lei: Maria è una ragazza di carattere mite, intelligenza, svegliata e sufficiente coltura, che riscuote una buona fama nell'opinione pubblica. È lavoratrice assidua, non frequenta compagnie e nei suoi doveri verso la famiglia si comporta bene. Solo un anno dopo però il prefetto la definisce una socialista intransigente, che per lui non era di certo un complimento. L'inizio del Novecento è un periodo di grande fermento per le lotte operaie e contadine e in particolare per il mondo socialista. Sono infatti gli anni della solidarietà operaia, della diffusione delle camere del lavoro, dei giornali militanti e purtroppo anche degli spari nelle piazze dello Stato e dei padroni. E Maria, in questo clima, fa quello che le riesce bene: educare, organizzare, scrivere. carcere è una costante della vita di Maria, forse è l'unica cosa che la ferma. Per sfuggire ad un arresto va in Svizzera, anche perché era incinta del suo primo figlio. Questo infatti è il periodo in cui ha una relazione con l'anarchico Carlo Civardi, con il quale avrà 7 figli. In Svizzera conosce Lenin e Mussolini, e soprattutto quella che diviene una grande amica e collega, Angelica Balabanov, con la quale crea il giornale Su Compagne. L'emancipazione femminile infatti è tema caro a Maria Giudice, e in particolare quello che riguarda l'indipendenza economica. Anche la sua biografia sentimentale è segnata da spinte sovversive, infatti dice del matrimonio: l'amore è cosa così intima, così assolutamente personale, che il farne un atto pubblico o peggio ancora ufficiale è un profanarlo. Nel 1916 va a dirigere niente poco di meno che la Camera del Lavoro di Torino. È la prima volta che una donna ricopre questa carica. Diventa anche la segretaria della Federazione Torinese del PSI, mentre continua il suo impegno giornalistico come direttrice, prima di Gramsci, del Grido del Popolo. Scoppia la guerra e Maria è anti-interventista e tra scioperi, manifestazioni, violenza della polizia passa da un carcere all'altro e nel 1919 perde il suo compagno, Carlo Civardi, del quale aveva mal digerito il suo interventismo. Il fascismo arriva e nel 1927 Maria è ovviamente più che attenzionata dalle forze dell'ordine. In questi anni si dedica ai temi culturali e alla solidarietà attiva, ha le mani legate ma non si arrende. Nel 1941 la vediamo a Roma proprio per la sua cara Gogliarda e nel 1945 firma l'atto di fondazione dell'Unione Donne Italiane. A raccontarci la vita di Maria Giudice, abbiamo invitato Maria Rosa Cutrufelli, che ha scritto appunto Maria Giudice, Leonessa del Socialismo, una collana che si chiama Mosche d'Oro ed è di Giulio Perrone Editore. Una collana questa in cui scrittrici raccontano la vita di altre scrittrici, architette o sindacaliste. Una collana che racconta storie di donne sottovalutate. Maria Rosa Cutrufelli è scrittrice, attivista femminista ed è presidente del Centro Studi Alma Sabatini. Siamo con Maria Rosa Cutrufelli, l'autrice di Maria Giudice, uscito per Giulio Perrone nel 2022. Salve Rosa, grazie mille per questa intervista. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, iniziamo subito a entrare nella vita di questa donna instancabile, mi verrebbe da dire. Ci puoi raccontare 2 o 3 caratteristiche della sua vita da militante a cui sei un po' più legata? Così raccontiamo un po' anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori delle caratteristiche della sua biografia. Beh, intanto Maria Giudice era una donna del Nord che ha militato, si è iscritta al Partito Socialista, è diventata segretaria della Camera del Lavoro di Torino, cioè ha avuto incarichi importanti al Nord, ma che a un certo punto è stata mandata dal Partito Socialista in Sicilia. E in Sicilia anche lì è stata molto amata, molto la sua militanza è stata molto riconosciuta e in un contesto totalmente diverso. Fra l'altro allora non era facile questo fatto che donne del Nord, militanti socialiste del Nord, sindacaliste del Nord si spostassero al Sud. Lei l'ha fatto e appunto dalla fabbrica, dalla Fiat, è passata alle leghe contadine e quindi ha conosciuto tutti gli aspetti dell'Italia dell'epoca, gli aspetti appunto della grande fabbrica e il latifondo e il bracciantato e le condizioni dei contadini del sud, che non a caso la chiamavano la Sammaritana. Senti, secondo te da parte diciamo degli uomini militanti e più attivi nella sinistra italiana c'era un riconoscimento della sua attività nonostante fosse una donna? E come ben sappiamo insomma la cittadinanza politica per molte donne arriva più tardi anche nei contesti della sinistra e della sinistra più radicale. Che rapporto c'era appunto tra uomini e donne? Allora bisogna dire questo, che Maria Giudice era molto autorevole, lei era il capo di Gramsci, cioè Gramsci era un suo redattore nel giornale dei socialisti piemontesi di allora, quindi ed era molto riconosciuta. Ciò non toglie che ci fosse un pregiudizio verso le donne lei su questo ha scritto molto, lei si lamentava, diceva dei suoi compagni, dice: voi che siete così socialisti quando si tratta di voi e che non lo siete affatto quando si tratta di noi. E parlava di una cultura barbuta all'interno anche del socialismo. Lei si lamentava di questa cultura barbuta. Chiaramente, le donne come lei erano poche allora, adesso sono molto di più, ma insomma. Lei allora era in una sparuta minoranza. Lei era una donna forte e una donna rispettata per ciò che faceva. Ciò non toglie che ci fosse un forte pregiudizio contro le donne come lei, soprattutto poi quando usciva anche. No, indubbiamente lei si lamenta dei suoi compagni socialisti, però quando usciva fuori dal recinto socialista era ancora peggio la cosa, perché ovviamente la sua stessa militanza la metteva in cattiva luce. Invece leggiamo nel libro che Maria Giudice ha molti figli, ricordiamo l'ultima della quale è Goliarda Sapienza, che è la più famosa. Secondo te qual è il rapporto che ha lei, Maria Giudice, con la maternità? Un rapporto, mi pare, viscerale, è una cosa molto importante per lei questa. È un rapporto molto complicato, se pensiamo che allora, fra l'altro, i socialisti erano malthusiani, cioè predicavano il contenimento delle nascite, e lei invece ha fatto 10 figli, quindi era disobbediente alla sua fede socialista in questo, e aveva un rapporto molto complicato con la maternità. Io penso che spesso le donne hanno un rapporto complicato con la maternità, ma per lei era ancora più complicato, perché era una per le sue idee andava spesso in galera, quindi doveva abbandonare i figli, e quindi era un rapporto molto complicato, molto viscerale, sì, indubbiamente. Il rapporto poi con Goliarda, che era l'ultima, era un rapporto molto simbiotico, molto di grandissimo amore, ma anche di grandi dolori che derivavano proprio da anche da una durezza di vita, da una condizione di vita. Diciamo che il rapporto di Maria Giudice con la maternità non è stato uno dei più facili. Senti, studiando diciamo le fonti e la letteratura attorno a questa figura così vivace, mi chiedo se Che cosa hai trovato di scritto da parte di Gogliarda Sapienza su sua mamma? C'è qualcosa che ti ricordi? Tutto. I libri di Gogliarda sono praticamente tutti su sua madre. Il filo di Mezzogiorno è quello, è il più drammatico, perché racconta la sua malattia che si rispecchia nella malattia della madre e viceversa, quindi è un libro straziante, ma sua madre è presente in tutte le sue opere. Se non si conosce sua madre non si può capire la scrittura di Gogliarda. Maria Giudice, quindi diciamo, io penso che la maggior parte delle persone l'hanno conosciuta ultimamente perché è mamma di Gogliarda. Secondo te ha abbastanza riconoscimento nella letteratura specializzata sulla storia dei movimenti o la storia delle donne militanti? No. O è un po' messa da parte? No, è un po' messa da parte anche per motivi, ne discutevo adesso con il professor Poma, che è un suo biografo, e adesso anzi devo andare, certo, a parlarne in pubblico. No, è stata messa da parte anche perché Maria Giudice è una socialista umanitaria, cioè è sempre stata fedele a una corrente minoritaria del socialismo. Non è mai entrata nel comunismo, non vedeva di buon occhio il comunismo, quindi è sempre stata fuori dalla corrente principale, e questo l'ha pagato ovviamente. Beh, una donna comunque straordinaria, di una vivacità enorme, sì, politica e umana, ed è davvero una biografia che ci racconta un pezzo d'Italia importante, sia per i suoi viaggi tra il nord e il sud, sia per l'attenzione ai temi sociali a cui si è dedicata. Certo. Ha attraversato, certo, anche il fascismo, la galera in tutte le sue forme, ed arriva anche dopo la Resistenza. Ti chiedo un'ultima battuta sul suo rapporto, sì, con la Resistenza, e poi ti lasciamo andare. Beh, la Resistenza. Lei era in una clinica quando a Roma ci furono le battaglie dei partigiani. Suo marito, no, per carità, lei non era sposata, non voleva sposare. Il suo secondo compagno, il padre appunto di Gogliarda, Peppino Sapienza, era a capo di una formazione partigiana che poi salvò la vita sia a Pertini, però lei nella clinica faceva il giornale della formazione partigiana del suo compagno, e poi lei le faceva, Gogliarda andava a diffondere le. Insomma, ha partecipato anche lei, appunto, da una clinica, quindi neanche la malattia l'ha fermata, è riuscita a fermarla. Grazie mille per il tuo tempo e le tue parole. Buona presentazione, allora. Grazie mille. Maria Giudice è nata il 27 aprile del 1880. E dopo una vita formidabile si spegne il 5 febbraio 1953 a Roma. Sperando di avervi regalato un po' dell'entusiasmo della Lionessa del socialismo, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima domenica sempre alle 11, sempre su Radio Città Fucico, oppure in podcast a inizio settimana sul sito radiovallun.info. Ciao! Ciao! Why should I leave entertainment? Why should I say that I'm feeling superior in this moment right now? Why should I leave many things unsaid, almost broken? Why should I turn around and lay down again? Why should I leave light reflector? should I show off the best of me rather than talk to you? Why should I turn down the intention to try to get back to you? Or simply I'll stop and lie on the back to the ground. And I tend to deny it. To be changing, each entertainment is changing, it makes me uncover. Despite a desire to return to the game, it's so strong.